Thank you. madre mia, il catalogo è questo, belli belli come il padron mio, un catalogo è vecchio fatio, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 99, in Spagna, ma in Spagna sono già 1003, 1003, 1003, andrà queste contadine. Cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, e padroni, donne cato, donne forma, donne età, donne di forma, donne età. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia una mamma, mamma in Spagna, ma in Spagna sono già 1003, 1003, 1003. Fanno questi contadini, cameriere, cittadini, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, che fanno ogni con il canto, ogni forma, ogni forma, ogni forma. Voi chiedo fratelli Nessun che mette io zo maide, nessun che mette io zo maide. Ma quanto spettino, quanto spettino, quanto spettino, tu vei, so ne stanno sti stai, tu vei, so ne stanno sti stai, mi stanno sti stai, mi stanno sti stai. Spettino, spettino, spettino, spettino, spettino, spettino, spettino, spettino, spettino, spettino, spettino, spettino, Bist du zugehörigen, ihr schwer zugehörigen, ihr schwer. Ich so will, ich so will, ich so will, ich so will, ich so will, ich so will, ich so will, ich so will. Und wenn du der Großmogul wärst, und wenn du der Großmogul bist, wenn du der Großmogul bist, Fuori un grandissimo per dei cabra

Thank you.

Fantasy!